teoria delle stringhe è nata. È democratico perché per OGM si intende l'effetto placebo da Bicon è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone, scienza e dintorni su Radio Città Fujiko, a cura di Fabio De Sicò. Sabato 7 febbraio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Tese 380 94 94 per inviare i consueti sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per le vostre mail. Su internet www.cacciafotone.it. E quest'oggi parleremo di un argomento complessissimo, parleremo di informatica quantistica. E per parlare di informatica quantistica, ma soprattutto di computer quantistici, abbiamo al telefono il dottor Paolo Perinotti, assegnista di ricerca presso l'Università di Pavia, ma soprattutto membro del Quantum Information Theory Group. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Paolo, come al solito tu hai 100 parole iniziali per introdurre l'argomento, quindi cerchiamo di spiegare che cos'è il computer quantistico e soprattutto che cos'è l'informatica quantistica. Per fare un'addizione un computer legge gli addendi e restituisce la loro somma. Adesso pensate a un computer che invece sappia leggere in una volta sola tante copie di addendi e di restituire con un conto solo tutte le loro somme. Questo è un computer quantistico. In realtà c'è un trucco, perché in realtà non potrete leggere tutte le somme una ad una. Dovendo sottostare alle leggi quantistiche, se cercherete di conoscere le somme potrete vederne soltanto una a caso, ogni volta una diversa. Però queste stesse leggi, che sono quelle delle particelle microscopiche, permettono di sfruttare in modo elegante le capacità di calcolo parallelo di un computer quantistico, dal quale, ponendo domande giuste, si possono ottenere risposte che qualunque computer classico non è in grado di dare. Ecco, questo è più o meno un riassunto di quello che fa un computer quantistico, detto in termini non tecnici. Ecco, per capire un po' meglio bisogna entrare un po' più nello specifico. Diciamo, Paolo, che già abbiamo rivelato la complessità dell'argomento. Io ti lascio ascoltando un pochino di musica, ritorniamo poi in studio e cominceremo a parlare finalmente del computer quantistico e dell'informatica quantistica. D'accordo. Bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi stiamo provando a parlare di informatica quantistica. So many times that I've looked and found my heart is turning, it's tumbling around, and there are you reached out your hand. telefono abbiamo sempre Paolo Perinotti del Quantum Information Theory Group. Paolo, cominciamo a parlare di informatica quantistica, quindi comincio con la prima domanda che forse è la più semplice ma anche la più complicata. Che cos'è un computer quantistico? Allora, un computer quantistico è un modello di computazione, ovvero un modello astratto di macchina che è in grado di fare alcune operazioni su dei bit. Però questi bit hanno una peculiarità, cioè non sono i bit a cui siamo abituati noi. I bit che usano i nostri computer sono delle variabili che possono valere 0 oppure 1. Un bit quantistico è un bit che può valere non solo 0 o 1, ma anche una qualunque sovrapposizione di 0 e 1. Senti, un bit esattamente è un pacchetto di dati, vero? Il dato base, cioè un dato è una collezione di bit. Una stringa di bit, cioè una stringa di 0 e 1, codifica un'informazione. Quindi un pacchetto di informazione è una stringa di bit. Ecco, invece nel computer quantistico le informazioni sono codificate su stringhe di qubit che possono quindi assumere dei valori che non sono soltanto una stringa ben precisa, ma in un solo registro di bit ci possono stare tutte le stringhe lunghe quanto quel registro in sovrapposizione una con l'altra simultaneamente, e questo dà luogo alla straordinaria potenza che avrebbe un computer quantistico funzionante. Senti, esattamente quali sono i vantaggi del qubit rispetto al bit? Cioè, quali sono i vantaggi del computer quantistico rispetto al computer normale? Beh, permette di risolvere dei problemi che un computer normale non può risolvere, nel senso che ci sono alcune funzioni che sono difficilissime da calcolare per un computer classico, e invece con un computer quantistico diventano molto più facili, nel senso che ci sono operazioni che computer attuali non potrebbero risolvere neanche in un tempo pari all'età dell'universo. Un esempio è la fattorizzazione di grandi numeri interi, ovvero quando uno ha un numero intero molto grande lo può scrivere come prodotto di numeri primi. Trovare i numeri primi a partire dal numero intero è un problema che per una macchina classica è difficile, cioè più è lungo il numero e più aumenta il tempo che è richiesto perché la macchina risolva il problema. Quello che si chiama il tempo di integrazione, vero? Esattamente, e questo tempo diventa esponenziale nella lunghezza del numero. Mentre in un computer quantistico si conoscono algoritmi per cui questo tempo è polinomiale, questo vuol dire che si risolvono questo tipo di problemi in tempo ragionevole, non nell'età dell'universo, diciamo. E questo ha dei risvolti pratici molto importanti, perché sull'impossibilità di fattorizzare dei grandi numeri si basano tutti i protocolli attuali di sicurezza crittografica. Ad esempio, quando inserite un numero di carta di credito in internet, il vostro numero viene crittato usando protocolli che si basano su questo, sul fatto che un eventuale spia non è in grado di fattorizzare un numero intero molto grande nei suoi fattori primi. Però se uno avesse a disposizione l'algoritmo quantistico funzionante, questo diventerebbe fattibile, quindi non è una sicurezza assoluta quella che si ha attualmente. Senti, prima di parlare di sicurezza, che poi è uno dei dati fondamentali che fa vincere l'informatica quantistica sull'informatica classica, ti voglio chiedere se c'è un paradigma diverso all'interno dell'informatica quantistica, quindi della meccanica quantistica, rispetto ai computer al silicio che utilizziamo oggi. Sì, esattamente. Il problema è tutto nel paradigma di computazione. In realtà non è tanto il silicio che fa la differenza, perché anzi esistono molti esperimenti che tentano di produrre computer quantistici sempre su base di silicio. Quindi come viene realizzato non è importante. Quello che importa è che le memorie che vengono utilizzate per immagazzinare e i processori che vengono utilizzati per processare l'informazione funzionino come particelle quantistiche, cioè i loro stati possono stare in sovrapposizione e le trasformazioni che si possono fare sui loro stati siano le trasformazioni previste dalla meccanica quantistica, quindi devono essere elettroni, fotoni o atomi. E poter utilizzare gli stati di queste particelle microscopiche come bit quantistici, cioè qubit, permette proprio un paradigma diverso di computazione, permette di fare algoritmi che con un computer classico non si possono fare, perché ovviamente quando un bit classico assume il suo valore, che è o 0 o 1, non si può elaborarlo come se avesse un valore che è una sovrapposizione di 0 o 1, cioè nel circuito di un computer o passa corrente o non passa corrente. Se passa corrente il valore del bit è 1, se non passa corrente è 0. Invece in un computer quantistico c'è anche una situazione, anzi un'infinità di situazioni intermedie in cui si può dire che passino sia 0 che 1 simultaneamente. Paolo, ti devo fare una domanda che non ti vorrei fare, però te la devo fare perché, come dire, d'obbligo. Questa è una macchina teorica o una macchina reale? Cioè, in pratica, esistono dei computer quantistici? E se non esistono, quanto tempo dobbiamo aspettare per vederli? Allora, esistono. Adesso quello che dico potrà sembrare ridicolo. Quello che è funzionato meglio fino adesso funziona su 7 qubit. Il grande successo è stato fattorizzare 15 uguale 5 per 3. Però è una cosa importante perché questo dimostra che si possono fare. Il tempo di attesa invece è una domanda più difficile perché questo dipende da cosa riescono a fare gli sperimentali nei loro laboratori. Per adesso diciamo che il grande vantaggio della computazione quantistica è teorico, cioè noi sappiamo che il giorno che qualcuno riuscirà a costruire un computer quantistico saprà fare cose mirabolanti, ma siamo ancora piuttosto lontani da quel giorno, ecco, per dirla in modo semplice. Molti sforzi e molti finanziamenti in corso per cercare di migliorare questa tecnologia che tra l'altro negli ultimi 10 anni sta facendo passi da gigante. Adesso stiamo collaborando ad esempio noi ad un progetto in cui ci sono alcuni gruppi sperimentali che intendono nel giro di 3 anni realizzare dei processori a 16 qubit, che insomma sono abbastanza grandi, sono più del doppio rispetto a quello a 7 qubit di cui vi ho parlato. Senti, prima di entrare nell'argomento della sicurezza informatica, che poi sarà uno dei primi argomenti che tratteremo nella seconda parte della trasmissione, ti voglio chiedere quali sono i problemi fino ad ora riscontrati più grossi dell'informatica quantistica, perché ovviamente costruire un computer quantistico, quindi costruire un computer che funzioni non con un flusso di dati continuo ma con dei pacchetti di dati, quindi lavorando sui principi della meccanica quantistica, credo che sia un principio molto complesso da fare. Il problema più grosso si chiama decoerenza in gergo tecnico ed è questo. Io vi ho detto che il grosso vantaggio del computer quantistico è che riesce a lavorare su stringhe di bit che sono in sovrapposizione. Questa sovrapposizione è molto delicata, cioè uno stato di un registro di qubit sovrapposto dura molto poco tempo e qualunque interazione, anche la più debole con un ambiente esterno che lo disturbi, distrugge questa sovrapposizione e distrugge fatalmente il potere computazionale di un computer quantistico. Quindi i grossi sforzi che si fanno sono proprio quelli di realizzare dei computer in cui questa sovrapposizione, che si chiama coerenza, viene mantenuta più a lungo possibile. Esistono anche dei modelli teorici in cui si dimostra che anche in presenza di rumore, codificando adeguatamente i bit, si riesce a mantenere alcune sovrapposizioni molto più a lungo. Però avere un controllo tecnologico così sofisticato è una cosa difficile ed è proprio questa la grossa sfida attuale in questo campo, cioè trovare dei gruppi sperimentali che riescano ad avere controllo sempre più sofisticato e preciso sui sistemi quantistici in modo da vincere la decoerenza e mantenere queste sovrapposizioni preziosissime. Paolo, quando parli di sovrapposizioni parli di dati che viaggiano paralleli come su un binario del treno, vero? Esattamente, è come se usando un solo canale io riesco a trasmettere, usando un solo bit riesco a trasmettere sia 0 che 1 simultaneamente. Che questo è il vantaggio dell'informatica quantistica, cioè trasferire più dati contemporaneamente invece che un dato per volta. Sì, il parallelismo, esattamente. Questo è la base di tutti gli algoritmi vincenti finora dimostrati in questo campo. Paolo, ci lasciamo con un pezzo musicale, poi torniamo in studio e continuiamo a parlare di informatica quantistica, che è una delle cose più interessanti che abbiamo trattato all'interno di Caccia al Fotone. A dopo. Ritorniamo in studio a Caccia al Fotone. Quest'oggi stiamo parlando di informatica quantistica. Al telefono sempre Paolo Perinotti del Quantum Information Theory Group. Paolo, ci siamo lasciati con il concetto della sicurezza informatica. Ti volevo chiedere perché il computer quantistico è più sicuro informaticamente rispetto a un computer classico che utilizziamo oggi? Il computer che comunica utilizzando codici crittografici quantistici è intrinsecamente sicuro, mentre un computer classico non lo è intrinsecamente. Per essere più chiaro, dico questo: i protocolli crittografici che si usano oggi con il nostro computer sono basati sul fatto che nessuno ha ancora inventato un algoritmo che sa fattorizzare i numeri. Non è una sicurezza assoluta. Il giorno che qualcuno lo inventasse, tutti i codici sarebbero automaticamente violati, e non c'è nessuna dimostrazione che prima o poi qualcuno non lo possa fare. Invece un computer quantistico che usasse delle codifiche quantistiche per la trasmissione crittografica avrebbe la certezza di non essere intercettabile, perché sono le leggi della fisica quantistica stessa che rendono impossibile un'intercettazione. O meglio, i protocolli più famosi di crittografia quantistica sviluppati fino ad oggi hanno la caratteristica che se una spia cerca di attaccare la comunicazione per leggere i messaggi, viene automaticamente scoperta con certezza. Proprio questo aspetto è forse uno di quegli aspetti vincenti della quantum information che l'ha resa molto interessante per chi ha bisogno di fare comunicazioni crittografiche, tant'è che ci sono aziende che producono sistemi crittografici quantistici a livello commerciale già oggi, principalmente in Svizzera e negli Stati Uniti. Senti, tu ti occupi di informatica quantistica da quanto, e soprattutto come ti sei avvicinato all'informatica quantistica? Quando uno è piccolo dice: io voglio fare pompiere, voglio fare carabiniere. No, tu hai deciso da piccolo che volevi fare l'informatico quantistico, oppure passaggi sono stati diversi e diversificati? Io inizialmente, quando ho studiato fisica all'università, volevo fare l'astrofisico. Poi però durante i miei studi sono rimasto folgorato dal fascino della meccanica quantistica e ho deciso di studiare meccanica quantistica. Mi occupo di informazione quantistica dal 2002, faccio un tipo di lavoro molto teorico, cioè mi occupo degli aspetti matematici della meccanica quantistica che possono essere utili per protocolli di informazione quantistica. Presentandoti abbiamo detto che fai parte del Quantum Information Theory Group. Ti volevo chiedere, parlaci un attimo di questo gruppo, che tipi di lavori state facendo? State lavorando sui principi dei computer quantistici? State lavorando sulla costruzione di un computer quantistico? State lavorando solamente sulla matematica che sviluppa gli algoritmi all'interno del computer quantistico? Spiegaci più o meno che cosa fate. Sì, allora il gruppo è diretto dal professor Dariano e noi ci occupiamo principalmente di modellizzare matematicamente le operazioni che si possono fare con sistemi quantistici e poi ottimizzarle. Cioè, noi utilizziamo il formalismo della meccanica quantistica per descrivere tutto quello che si potrebbe fare e poi, se abbiamo in mente di voler ottenere uno scopo particolare, abbiamo dei metodi che ci permettono di scegliere tra tutti i dispositivi disponibili quello che funziona al meglio al nostro scopo. Ora, questa ottimizzazione è teorica, una volta che si trova questo dispositivo come dovrebbe essere fatto, non è detto che qualcuno lo sappia fare in laboratorio, per cui poi c'è un secondo aspetto del nostro lavoro, che è quello in collaborazione con gruppi sperimentali, che è di trovare la migliore approssimazione con quello che si sa fare oggi, diciamo, di questi dispositivi ottimali. L'ottimizzazione è molto importante nell'informazione quantistica perché ci sono alcune cose. Prima parlavo del grande potere che danno le leggi della meccanica quantistica, ci sono anche altri risvolti perché ci sono alcune cose che a noi sembrano banali ma non si possono fare, ad esempio copiare un file è una cosa che su un computer classico si fa tranquillamente, in un computer quantistico è impossibile fare. Questa impossibilità è importante perché, ad esempio, è alla base della sicurezza della crittografia, però ha accompagnato, diciamo, la quantum information dalla sua nascita, perché uno dei problemi più importanti di fondamento affrontati in questi anni è stato cercare di capire, anzi capire come si possa copiare al meglio, cioè con la miglior fedeltà possibile. Non si può fare perfettamente, però come si fa a copiare un file quantistico, diciamo così, mantenendo la copia più fedele possibile all'originale? Questo tipo di problemi di ottimizzazione, questo è il più semplice, però noi ci occupiamo di problemi di ottimizzazione simili a questo, ma molto più complessi, per fare cose anche più complicate. Ad esempio, ultimamente abbiamo sviluppato una teoria che permette di descrivere delle reti quantistiche, quindi cose molto più complesse di singoli processori, delle reti che connettono diversi processori, e tra queste reti noi abbiamo cercato di capire quali sono quelle ottimali per, ad esempio, copiare una funzione, che è una cosa, diciamo, una generalizzazione della copia di un file. Paolo, non vorrei allarmare tutti i programmatori all'ascolto, ma se sto capendo bene, quando nascerà veramente il computer quantistico da tavolo, andranno cambiati tutti i linguaggi di programmazione, perché i principi sono totalmente diversi? Se è impossibile copiare un file, o almeno è molto difficile copiare un file, se la sicurezza informatica è diversa rispetto a un computer classico, andranno cambiati tutti, vero? Certo, per lavorare su un computer quantistico ci vorrà una logica completamente diversa da quella alla base della programmazione attuale. Però, se vogliamo tranquillizzare gli ascoltatori, non credo che questo toccherà la vita quotidiana di noi, perché non avremo bisogno di questi computer per fare le cose che facciamo tutti i giorni, tipo scrivere un documento o usare una calcolatrice. Diciamo che sarà compito di tecnici specializzati programmare dei computer che saranno utilizzati per scopi molto più complessi. Io non so, immagino simulazioni di sistemi fisici, previsioni meteorologiche, cose molto complicate. Sicuramente non c'è bisogno di un computer quantistico al posto del nostro laptop. Sarebbe come, per fare una metafora, usare una Formula 1 per girare in città, ecco. Paolo, ci andiamo ad ascoltare un pochino di musica, poi torniamo in studio con le conclusioni finali. Siamo arrivati nella parte conclusiva di Caccia al Fotone. Paolo, ti volevo fare un'ultima domanda, visto che ci siamo interessati più volte in trasmissione della fisica, quindi della fisica delle particelle, della fisica anche più strana che si può studiare all'interno dei laboratori. L'entanglement, quindi il fenomeno per cui due particelle a distanza reagiscono allo stesso modo, diciamo, come è coinvolta all'interno dell'informatica quantistica? Beh, è fondamentale, perché queste famose sovrapposizioni di registri quantistici di cui parlavo prima non sono altro che stati entangled, cioè sono stati con correlazioni tra le particelle diverse e distanti che non sono simulabili in nessun modo da sistemi classici. Anzi, diciamo che l'entanglement si può dire che sia proprio la caratteristica che distingue un computer quantistico da uno classico, e più in generale una particella quantistica da un sistema fisico classico. L'entanglement porta delle correlazioni per cui Non si possono utilizzare queste correlazioni per fare comunicazioni istantanee a distanza, però si possono fare altre cose stranissime come il teletrasporto, ad esempio, è diciamo, la caratteristica proprio peculiare dei sistemi quantistici. Paolo, ti volevo rubare l'ultimo minuto e mezzo di trasmissione per dire due parole sul caso di Eluana Englaro. Noi dobbiamo fare una trasmissione sulla differenza, sul limite fra la vita e la morte proprio oggi, però abbiamo pensato di non farla. Abbiamo pensato di non farla perché se ne è parlato troppo, perché tutti ne stanno parlando, perché in mezz'ora non si può esaurire l'argomento fra la vita e la morte, fra la distanza fra la vita e la morte, e quindi promettiamo di trattare questo argomento in un altro momento, un momento lontano dall'emotività di questi giorni, e soprattutto auguriamo che tutta la faccenda finisca in una maniera decente e non in una maniera molto emotiva come sta finendo in questo momento. Paolo, ti ringrazio per essere intervenuto all'interno di Caccia al Fotone e ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucico e di Caccia al Fotone. Io ti auguro buon lavoro prima di tutto. Grazie. Perché è un lavoro veramente complessissimo, quindi massimo rispetto per te e per tutto il gruppo che sta lavorando su questi argomenti. Ci risentiremo presto, perché spero che il primo computer quantistico venga fatto in Italia, chi lo sa, speriamo. E quindi auguro a te e a tutti i nostri radioascoltatori una buona scienza. A tutti. Grazie.